Abbiamo Anna qui a Roma, Chris Florido del Canto di Vesta, Lucia Cagliazza del progetto Lupsi, Maya in Umbria. Abbiamo anche Antonio Zoviet in quel di Firenze del progetto Omicidio, Giulia qui a Roma, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Tiziano Zero Farinacci di P. Greco. Abbiamo Lake Wake, l'ambiente storica qui di Roma. Giovanni Lisi Silvestri di Cordis Cinti Serpente. Salutiamo anche Noise Cluster con Arianna Degni Lombardo e Flavio Derbecante. Stiamo mettendo a posto le ultime cose, adesso possiamo iniziare e lo facciamo con, intanto mi scuso con chi sta ascoltando. Allora, dicevo, iniziamo con l'ultimo, uno degli ultimi lavori, non andrò a vedere meglio se è effettivamente l'ultimo, riguardante Eddie Newton. Eddie Newton lo conoscete soprattutto per la sua attività con Clock DBA e Antigroup, ma di tanto in tanto si esprime anche usando il suo vero nome. Si rimane sempre nel campo della sperimentazione elettronica, forse in certi tratti con una leggera influenza jazz, ma comunque cominciamo a conoscere questo Newtons del 2022. Si apre con For Those That Are Gone e The Future Is Behind You. ancora Eddie Newton, ce lo stiamo ascoltando con e attraverso questo lavoro dal nome Newtons del 2022. Di Newton, quando usa il proprio nome dal punto di vista artistico, forse entra in una dimensione leggermente più soffusa, più intimista, con però agganci al jazz, all'ambient. un grosso collaboratore che suona un po' di tutto all'interno di questo disco: il basso, il clarinetto, il sassofono ed altro, è Michael Somerset Ward. La parte elettronica è appannaggio ovviamente dello stesso Eddie Newton. Tutto ciò da Newtons, che raccoglie materiale dal 2008 al 2021 attraverso anche un'etichetta italiana, la Rizosfera, attiva anche dal punto di vista librario. C'è anche Tez Martinucci, suo fido compagno in Croc DVA. Saluto Mariano qui a Roma, La Furna, visti qui a Roma qualche tempo fa, che ci sta ascoltando invece dal Piemonte. Anche Urnus Island, anche loro dal Piemonte. Anche questa sera un passaggio da The First Light di Dennis Callaci e Emito Kunst per quanto riguarda la dissipazio. Già partita It Never Ends e poi ci sarà la conclusiva Erase Strength to the Tide. Yeah. you fail, stumble, found yourself on the floor, disabled. Well, at least you arrived in time, all together. When it was you alone, sweeping the room with your blues, knowing the pain it did end, yet still. Il sostanzioso porto alla voce di Dennis Callaci insieme ai Mito Kunst da questo First Light dalla Dissipatio Record, ottima etichetta proveniente dalla Toscana di Nicola Quiriconi. Un loro personale concetto di psichedelia e di kraut rock, così diafano, così visionario ed onirico. Decisamente immersivo, qualità peraltro principale proprio del suono di Mito Kunst. La voce appunto è stata la nota, diciamo, diversa rispetto ai lavori del passato. Una voce evidentemente ispirata, secondo me, all'arte di Lou Reed, che in queste strutture armoniche ci sta effettivamente a pennello. Altra artista di punta della scena italiana per quanto riguarda, diciamo, l'ambient in senso ampio è la milanese Lia Bosch. Si chiama Polar Cod, quindi micro movimenti di ghiacciai in scioglimento. Natura siderale e non a caso incide con la Glacial Movements di Alessandro Tedeschi. Etichetta questa qui di Roma. Questa sera ci andremo ad ascoltare Unknown System, Command Core e New Parameters. le frequenti stratificazioni ambient di Lia Bosch da questo Polar Cod esce per Glacial Movements e l'immaginario è conseguente. Tutta l'etichetta si sviluppa e tratta il tema appunto della glacialità, dei movimenti dei ghiacciai. E Lia Bosch non fa eccezione. Polar Cod è il suo esordio, targato 2024. Ampio spazio a lei con Unknown System, Command Core e New Parameters. Saluto intanto Giuliana DJ Banshee e Sarah Boy, ci sta ascoltando da Berlino. Continuiamo a trattare artisti italiani, lui è Massimo Magrini, ossia Bad Sector, vera e propria istituzione nel campo dell'elettronica sperimentale. E abbiamo qui un lavoro di 10 anni fa, si chiama Sifus, che ci rimanda all'artista con il quale abbiamo iniziato, ossia Eddie Newton. E soprattutto con Antigroup, credo sia una delle fonti di ispirazione di Massimo Magrini. E talvolta anche delle pulsazioni più prossime ai Clock DVA. Ci andiamo ad ascoltare questa sera da questo Sifus due tracce, ossia Fi Ita e Ishan.